portate sia la prigioniera finché non è finita, e poi però dovete avere con voi anche la fuggitiva. Ecco, adesso qui si tratta di andare come sempre a trovare la ricerca. Siamo andati. Eccolo qui. È 510 in questa edizione. 510. Adesso dovete, vediamo un poco per aiutare. Vabbè, vediamo un po' se riusciamo. Tanto, qual è l'altra edizione in circolazione? Questa qui, quella lì, vediamo un po' se riusciamo a vederlo anche su questo. Eccolo qui, maledetto. Allora è l'ultima riga, la penultima riga di 384. Adesso l'ho perso sul mio. Guardate per farvi vedere quanto questo libro è lavorato. Guardate in che condizioni si trova. Guardate in che condizioni si trova. E guardate quando è stato comperato. Leggete. 17.4 del 68. Ecco, io vorrei sapere da lei. Oddio. Che cosa faceva il 17.4.68? Non esisteva. Neanche nella mente di mia madre, immagino. Questo è stato comprato a Parigi il 17.4.68. Cosa? Da pochi giorni fai il compleanno. 17 aprile. Come fai a sapere? L'ha scritto il 17 aprile. Ma che babà! No, però, mica detto. Perché non ho mica detto che è il compleanno. Comunque lo è. Ma come vedete? No, parliamo del libro. Come non parlavo del libro. Comunque sono entrambe le cose. Sono entrambe le cose. Allora, andiamo indietro. E poi sapete che cosa è successo? È successo un fatto molto... Questo è importante da dire. molto interessante. Magari possiamo fare con pochi, possiamo evitare il microfono. Tanto sentite bene, no? Lei sente bene là? È successo che a un certo momento, non so se però mi dà fastidio parlare, vediamo un poco. Le nevrosi! È successo che nel frattempo sono stati trovati dei manoscritti prustiani. Questi manoscritti, è importante che sappiate queste cose, questi manoscritti hanno portato pian piano a una ricostituzione del testo della recherche. Questa ricostituzione ha generato negli studiosi, fra i quali il sottoscritto, ha generato molti dubbi. Ve ne dico uno che può essere accessibile anche a quelli del bar, che prendo sempre come modello. La parte più bella della recherche, che è il soggiorno a Venezia, in questa ricostruzione non c'è più. All'epoca ci siamo preoccupati perché, insomma, immaginate, sarebbe come se Leonardo... No, togliamo sto cavolo. Sarebbe come se... No, per me è fondamentale il microfono, se no mi parlando... Quante ore avrò parlato io a lezione? Qualche milione. Sarebbe come se Leonardo, nel presentare le sue opere, avesse trascurato la Gioconda, poi capite, no? E allora le domande che si sono poste erano: ma Proust è diventato pazzo? Come mai in questa nuova versione della recherche ha saltato la cosa più bella? E allora ipotesi varie sono state fatte, fra cui quella fatta dal mio maestro, ma è un'ipotesi naturalmente, e che Proust avesse fatto questa editio minor, per così dire, perché voleva che per una rivista che si chiamava Les œuvres libres, e voleva fare questa editio minor perché era convinto di morire e di non fare in tempo a fare, no, meglio che mi stanco proprio la voce, vediamo un po', mettendomi in modo adeguato lontano, e aveva la paura che non si sapesse da parte del lettore come andava a finire la recherche. Allora ha sforbiciato, ha tolto delle cose bellissime perché il nucleo della storia rimanesse intatto. Quando hanno fatto la seconda edizione della Pléiade negli anni 80, questa che ho io è la prima edizione della Pléiade, avvalendosi di tutti questi nuovi apporti, è venuto fuori anzitutto che non erano più tre tomi, come in questo caso, ma quattro tomi, e che non soltanto c'erano delle inserzioni, ma c'erano dei mutamenti proprio del testo. Che fare di fronte a un fatto di questo genere? È chiaro che il filologo deve tenerne conto. Ma la mia convinzione, dopo tanti approcci a una vita di studio, la mia convinzione è un pochino diversa. Vi voglio dire come la penso. Io penso che la fruizione artistica deve essere impastata della nostra sensibilità personale, e proprio questo sulla base di cose che aveva detto a suo tempo, guardate, proprio Proust e prima Baudelaire. Certo che se uno deve fare un'edizione della recherche aggiornata, ha bisogno di avere assolutamente tutto quello che è disponibile. E se vengono fuori dei brani che sono incompiuti o più brutti. Lui deve dire tutto. Quindi la filologia ha questo vantaggio che non consente in qualche misura scelte. Devi dire tutto. Se uno invece vuol basarsi su quello che è il fine della letteratura, e il fine della letteratura è quello poi di penetrare attraverso uno statuto linguistico e sintattico particolare in un certo mondo e siano avvenuti già certi contatti, allora comprare la nuova edizione della Recherche non ti aiuta troppo. E questo direi vale un po' per tutto. Questo vale un po' per tutto. Per un'opera d'arte. Poniamo che io, ipotesi assurda, poniamo che io abbia avuto una particolare fruizione della cena di Leonardo che si trova a Milano, l'ultima cena. E poi scopro, sapete che è uno degli affreschi più controversi nella struttura, eccetera. Poi io mi trovo, attraverso studi meravigliosi, ad avere una visione diversa della cena di Leonardo. Come filologo, come studioso, come scienziato, e ci mancherebbe altro che non ne tenessi il più rigoroso conto. Ma posso anche abbandonarmi a una sorta, come dire, di deliquescenza dei sensi e ricordarmi come l'avevo percepita la prima volta. Prendiamo per esempio il tema del restauro. Uno degli uomini più intelligenti, che fu maestro di Proust, tra l'altro, indirettamente, perché morì quando Proust cominciò a scrivere, che era il professore inglese John Ruskin, di cui forse vi ho fatto una certa menzione. John Ruskin era un matto, era proprio un matto, che ebbe un grande successo e che voleva un ritorno al Medioevo. Era un matto, voleva un ritorno al Medioevo, alla vita medievale, era contro il mondo moderno, contro le macchine, eccetera, eccetera. Tra le cose che Ruskin diceva, lui era contro il restauro, perché diceva che il restauro è un qualcosa che rovina fatalmente, anche quando si è fatto nel modo migliore, il capolavoro originario. Gli si può dare ragione? No, pensate, senza restauro le infinite opere d'arte che noi abbiamo, ma tutte si può dire, non tutte o quasi tutte, insomma, come sarebbero. Ma c'è qualcosa di vero in questo, in fondo. Se voi applicate il termine restauro in senso più vasto alla vostra vita psichica, alla vostra vita mnestica, di ricordi, insomma, il restauro a volte è pericoloso. È meglio che certe cose rimangano così come sono. E sempre così, in un clima di divagazione che riguardi anche la sfera a cui io torno sempre, perché poi è l'ultima ragione d'essere della letteratura, che è la sfera affettiva, insomma. Quando voi avrete la mia età e avrete una lunga e densa vita affettiva, vi capiterà sicuramente di incontrare delle persone che avete amato e che vorranno tornare da voi per vedervi, per curiosità, e voi stessi sarete curiosi. È una tentazione pericolosissima, pericolosissima, perché quasi sempre si risolverà in un drammatico fallimento, non perché invecchiando le donne in particolare, ma anche gli uomini divengano evidentemente meno carini, ma perché c'erano, anche da un punto di vista psicologico, degli agganci che erano avvenuti allora e che non possono più essere restaurati. Per cui bisogna lasciare che l'unica intermediazione fra noi e il passato sia la memoria. Questo è un discorso molto importante. Io ritengo che una delle cose più belle che siano state scritte al mondo siano le 150 pagine iniziali della seconda parte di Guerra e Pace. Avrei molto desiderio di rileggerle. Le avevo lette, mi ricordo, un tempo in cui facevo queste cose sentendo il Parsifal di Wagner. La musica e la lettura mi erano rimaste connesse. Da molto tempo vorrei riprendere quelle 150 pagine che sono, in particolare, per ve lo dico, la preparazione della battaglia di Borodino da parte di Napoleone, prima della battaglia, che sono una cosa mirabile, degna di Dante, degna di Omero. Ho un po' paura a riprendere queste cose in mano, queste pagine, così come avrei un po' paura a rincontrare una donna che abbia amato 20 anni fa, o anche incontrare un amico, o anche rivedere un posto in cui sia stato, che abbia amato. Perché il passato non muoia male, bisogna lasciarlo morto. Se si cerca di farlo rivivere, muore male. E allora, venendo a Proust, se io fossi qui per fare con voi uno studio filologico, ma voi non siete, non solo non è questa la sede, anche se è un'università, ma voi avete, non è certamente colpa vostra, ma voi avete una cultura nulla. È un dramma spaventevole, questo proprio del paese, dell'Italia, anche dell'Europa. E quindi come siete in grado di fare uno studio di questo genere? Che cosa invece potete fare? Potete imparare ad amare uno scrittore. E quando lo amate, alla vostra età, e se lo amate, non vi passa più di mente. Cioè tra 20, 30 anni, lo ricorderete, informerà i vostri pensieri e la vostra vita. Quindi è questo che io cerco naturalmente di fare. Va bene, fatto questo preambolo, che mi premeva però dirvi, cioè sappiate che ci sono questi lavori di restauro che possono però anche essere dannosi. Io per esempio, siccome in questo momento non sto facendo un lavoro scientifico su Proust, sto facendo una lezione, se dovessi scrivere sarebbe tutto un altro discorso. Scrivere, magari al modo che scrivo io, no, perché io mi occupo poi di filosofia soprattutto, non di filologia, ma io ho naturalmente le parti aggiornate della recherche, ma non mi interessa mica vederle. Ce le ho, ma non mi interessa vederle. Ecco, questo spirito che vorrei dirvi è molto importante. Il restauro è indispensabile, è chiaro, ma in certi casi può essere pericoloso. Allora, vediamo questo punto da cui siamo arrivati, adesso abbiamo chiacchierato di cose importanti, peraltro, e adesso vediamo se troviamo il capitolo. L'ultimo che avevamo visto, no, qui siamo già nella fugitiva, adesso vedrete che arriva, eccolo qua, dovete prendere allora il punto che vi ho indicato in un'edizione, la penultima riga, nell'altra è quella che ho fatto vedere a lei, dove si comincia questo discorso. Albertine lui dice, je n'ai aucun sommeil. L'ho trovato? Dovrebbe essere a metà parte. Albertine lui dice. Allora, questo capitolo qui, che è il capitolo 9, gli avevo dato un titolo, in questo momento non ce l'ho, ma ve lo darò, però sappiate che vi devo dare questo titolo. Ah, sì, titolo, come lo ricordo benissimo. Una finestra si spalanca nella notte. Una finestra si spalanca nella notte. E leggiamo questa meraviglia. nell'ultima parte di questa travagliata convivenza, se vogliamo, sia pure sotto le apparenze più gentili e affettuose del narratore con Albertine, in cui il narratore ha il terrore che Albertine lo tradisca, ma come vi ho detto più volte, non con uomini ma con donne. Albertine, le dissi, è sera, è notte, non ho alcun sonno. Se anche voi non avete voglia di dormire, potreste restare forse ancora un po', se volete, ma non insisto e soprattutto non voglio affaticarvi. Ci siamo tutti? Mi seguite, non voglio affaticarvi. Mi sembrava che se avessi potuto farla spogliare e averla nella sua camicia la notte bianca, nella quale sembrava più rosa, più calda, con cui irritava di più i miei sensi, la riconciliazione sarebbe stata più completa. Ma esitai un momento, perché il bordo azzurro dell'abito aggiungeva al suo viso una bellezza, un'illuminazione, un cielo, senza i quali mi sarebbe sembrata più dura. Ella ritornò lentamente e mi disse con molta dolcezza e sempre con lo stesso viso abbattuto e triste: posso restare quanto volete, non ho sonno. La sua risposta mi calmò, perché finché lei era lì sentivo che potevo pensare al futuro, ed ella mostrava anche in sé amicizia, obbedienza, ma ad una certa natura, e che mi sembrava aver per limite quel segreto che sentivo dietro il suo sguardo triste, le sue maniere cambiate, metà suo malgrado, metà senza dubbio per metterle in anticipo, in armonia con qualcosa che non sapevo. Mi sembrò che, ciò non di meno, non ci sarebbe stato che averla tutta vestita di bianco, col suo collo nudo davanti a me, come l'avevo vista a Balbec nel suo letto, che mi avrebbe dato abbastanza audacia perché ella fosse obbligata a cedere. Poiché siete così gentile da restare un poco qui a consolarmi, come voi dovreste togliervi l'abito? Fa troppo caldo, è troppo rigido e io non oso accostarmi per paura di sgualcire questa bella stoffa, e ci sono fra di noi questi uccelli fatidici, ve lo dico subito, ricamati sull'abito. Spogliatevi, mia cara. No, non sarebbe facile togliermi qui l'abito. Mi spoglierò nella mia camera fra poco. Allora non volete nemmeno sedervi sul mio letto? Ma sì. Ma lei restò un po' lontano, vicino ai miei piedi. Discutemmo, conversammo, e tutto un tratto sentimmo la cadenza regolare di un richiamo lamentoso. Erano i piccioni che cominciavano a tubare. Ecco, questo significa che fa già giorno, disse Albertine. E col sopracciglio quasi corrugato, come se mancasse, vivendo in casa mia, i piaceri della bella stagione. Deve essere cominciata la primavera perché i piccioni siano tornati. La rassomiglianza fra il loro tubare e il canto del gallo era altrettanto profonda e altrettanto scura che, nel settimino di Vanteuil, la rassomiglianza tra il tema dell'adagio, che è costruito sullo stesso tema chiave del primo e l'ultimo passo, ma talmente trasformato dalle differenze di tono, di tempo, eccetera, che il pubblico profano, se apre un'opera su Venteuil, è stupito di vedere che siano costruiti tutti e tre i pezzi sulle quattro stesse note. Quattro note che può d'altronde suonare con un solo dito al piano, senza ritrovarne alcuno dei tre pezzi. Così questo melanconico brano eseguito dai piccioni era una sorta di canto del gallo in minore, che non si alzava verso il cielo, non saliva verticalmente, ma, regolare come il raglio di un asino, avviluppato di dolcezza, andava da un piccione all'altro su una stessa linea orizzontale e mai si rialzava, non cambiava quel lamento laterale in quel gioioso richiamo che avevano emesso tante volte l'allegro dell'introduzione e il finale. Io so che pronunciai allora la parola morte, come se Albertine stesse per morire. Sembra che gli avvenimenti siano più vasti del momento in cui si verificano e non possano restarvi dentro tutti interi. Certo, debordano verso l'avvenire attraverso la memoria che ne conserviamo, ma chiedono un posto anche al tempo che li precede. Certo, si dirà che noi non li vediamo allora come saranno poi, ma nel ricordo non sono ugualmente modificati. Quando vidi che spontaneamente non mi baciava, comprendendo che tutto questo era tempo perduto, che non era che cominciando da un bacio che sarebbero iniziati i minuti calmanti e veri, le dissi: buonanotte, è troppo tardi, perché questo avrebbe fatto sì che mi baciasse e noi dopo continuassimo. Ma dopo avermi detto buonanotte, cercate di dormire bene, esattamente come le prime due volte, ella si contentò d'un bacio sulla guancia. Quella volta non osai chiamarla indietro, ma il mio cuore batteva così forte che non potei ricoricarmi. Come un uccello che va da un'estremità della gabbia all'altra, senza fermare, io passavo, senza fermarmi, passavo dall'inquietudine che Albertine potesse andar via a una calma relativa. Quella calma era prodotta dal ragionamento che ricominciavo parecchie volte al minuto. Ella non può andarsene via in ogni caso senza avvertirmi. Non mi ha mai detto che sarebbe andata via. Ed ero lì per lì, quasi calmo. Ma subito mi ridicevo: e tuttavia, se domani fosse partita, la mia inquietudine stessa deve essere causata da qualcosa. Perché non mi ha baciato? Allora soffrivo orribilmente. Poi ero un po' calmato dal ragionamento che ricominciò cominciavo, ma finivo per avere mal di testa, perché quel movimento del mio pensiero era così incessante e così monotono. Vi sono certi stati morali, e specialmente l'inquietudine, che presentandoci solo due alternative, hanno qualcosa di altrettanto atrocemente limitato, di una semplice sofferenza fisica. Io rifacevo perpetuamente il ragionamento che dava ragione alla mia inquietudine, e quello che dava torto e mi rassicurava. Su uno spazio così ristretto come quello del malato che palpa senza fermarsi con movimento interno l'organo che lo fa soffrire, s'allontana un istante dal punto doloroso per tornarci subito l'istante dopo. Tutto a un tratto, nel silenzio della notte, fui colpito da un rumore in apparenza insignificante, ma che mi riempì di terrore: il rumore della finestra di Albertine che si apriva violentemente. Quando non sentii più nulla, mi domandai perché quel rumore mi avesse fatto così paura. In se stesso non aveva nulla di straordinario, ma io gli davo probabilmente due significati che mi spaventavano ugualmente. Ecco, per cominciare, era una convenzione della nostra vita comune, siccome io temevo le correnti d'aria, che non si aprissero mai le finestre di notte. L'avevano spiegato ad Albertine quando era venuta ad abitare da me. E sebbene ella fosse persuasa che era da parte mia una mania e malsana, mi aveva promesso di non infrangere mai questo divieto. Ed ella era così timorosa per tutto ciò che sapeva che io volevo, per quanto lo biasimasse, che io sapevo che avrebbe piuttosto dormito nell'odore del fumo del camino che aprire la sua finestra, di modo che fosse pur l'avvenimento più importante, lei non mi avrebbe fatto svegliare al mattino. Non era che una delle piccole convenzioni della nostra vita. Ma dal momento che violava quella senza avermene parlato, ciò non voleva forse dire che non aveva più riguardi nei miei confronti e che le avrebbe violate le convenzioni tutte? Poi quel rumore era stato violento, quasi maleducato, come se avesse aperto rossa di collera e dicendo: questa vita mi soffoca, basta, ho bisogno di aria. Io non mi dissi esattamente tutto ciò, ma continuai a pensare come a un presagio più misterioso e più funebre che un grido di civetta quel rumore della finestra che Albertina aveva aperto. In un'agitazione come non ne avevo forse mai avuto da quella sera di Combray in cui Swann aveva cenato a casa mia, camminai tutta la notte nel corridoio sperando, col rumore che facevo, di attirare l'attenzione di Albertina e che lei avrebbe avuto pietà di me e mi avrebbe chiamato, ma non sentivo alcun rumore provenire dalla sua stanza. A Combray avevo chiesto a mia madre di venire, ma con mia madre non temevo altro che la sua collera. Sapevo di non diminuire affetto, testimoniandole il mio. Ciò mi fece tardare ad andare a chiamare Albertine. Poco a poco sentì che era ormai troppo tardi. Ella doveva dormire da molto tempo. Ritornai a coricarmi. L'indomani, appena mi fossi svegliato, siccome non veniva mai in camera mia qualunque cosa senza che avessi chiamato, suonai per Françoise e nello stesso tempo pensai: debbo parlare ad Albertine d'uno yacht che voglio farle fare. Prendendo le mie lettere, dissi a Françoise senza guardarla: fra poco avrò qualcosa da dire a Mademoiselle Albertine. Si è già alzata? Sì, si è alzata di buon'ora. Sentii sollevarsi in me, come in un colpo di vento, mille inquietudini che non sapevo di avere tutte sospese nel mio petto. Il tumulto era così grande che mi mancava quasi il respiro, come in una tempesta. Ah, ma dov'è in questo momento? Deve essere in camera sua. Ah, bene, bene, la vedrò fra poco. Respirai. La mia agitazione cadde, Albertine era lì e mi era quasi indifferente che ci fosse. Spero che abbiate apprezzato la sublimità di questa pagina. Lei che ne pensa? La sublimità di questa pagina. Cominciamo a vedere qualcosa e poi naturalmente continuiamo domani. Il problema fondamentale è questo: qual è la funzione dello star vicino alla persona amata? Solo una: non di godere la presenza della persona amata, perché la persona amata non ti ama. La sola funzione dell'aver vicino la persona amata è che la persona amata non può stare con nessun altro che l'ami. La persona amata non può fare porcherie amorose e sessuali con nessun altro. Ma se l'amante viene a sapere che la persona amata è sotto controllo, controllo che può nascere anzitutto dal fatto che è lì e quindi non può essere altrove, ma non solo, anche dal fatto, per esempio, che è con delle persone fidate che la controllino: la zia, Madame Bontemps, la sua tutrice. Allora sto bene. Ma nel momento in cui non mi fa più soffrire, non l'amo più, non la desidero più. Questo è il meccanismo fondamentale che più volte vi ho illustrato, che sta alla base del pensiero proustiano e che vediamo qui splendidamente rifulgere in quest'ultima parte. Chiede ad Albertine di venire vicino a lei. La scena, voi non ho avuto modo finora di parlarvene, la scena ha un qualcosa in comune con il famoso bacio della buonanotte. Conoscete la scena del bacio della buonanotte? Ecco, lì chiamava la madre. In realtà, se ben ci pensate, la scena del bacio della buonanotte chiamava la madre gli aveva proibito di chiamarla, alla fine la madre veniva, lui temeva l'ira della madre, ma senza il bacio della buonanotte non si sarebbe addormentato. Però il padre interviene e dice: ah, basta con queste storie, se tu vuoi non dare il bacio, ma molto di più, se tu vuoi dormire con lui questa notte, fai pure. Io non sono un tipo nervoso come voi, vado a dormire, fate quello che volete. Questa scena centrale ha a che fare con una visione dell'amore che, come vedete, si estende in seguito. Quello che voglio nell'amore è star tranquillo. È l'unica cosa a cui aspiro. Che tu non mi faccia soffrire. Quello che voglio è star tranquillo. Quindi chiama Albertine presso il suo letto, tenendo conto naturalmente che c'è splendidamente allusa questa atmosfera erotica che evidentemente non era con il rapporto con la madre. Chiede di venire e di spogliarla. Vi faccio presente che quando voi leggete un libro pornografico, qualcosa di pornografico in cui vedete tutto squadernato all'aria dappertutto, voi non avete alcuna emozione. Noi siamo talmente abituati a televisione, film, giornali, alla pornografia, che se voi una qualunque scena che vedete, quante donne nude vedete, quante ne vedete in circolazione sui giornali? Tante. Uomini nudi molti di meno, perché ma sostanzialmente c'è tutta una serie di nudità che vengono, atti sessuali che vengono, tutto questo non ci suscita niente per un fatto di abitudine, insomma. E qui, dove non c'è un solo atto sessuale, basta una parola per indurci a fremere. Lui chiede ad Albertine di venire lì a se déshabiller, a spogliarsi. E il lettore, incallito di fronte a tutte le manifestazioni pornografiche, rimane con il fiato sospeso per lei che si spoglia, perché guardate poi come immediatamente viene detto che le chiede di vederla nella sua camicia da notte bianca. La camicia da notte bianca è da un'immagine di purezza e di non violenza. Se, sto scherzando naturalmente, se Albertine si fosse presentata con una guêpière nera, avrebbe avuto, diciamo che gli uomini sono eccitati da, come si chiamano, le giarrettiere, queste cose qui, eccetera, no? Ma una camicia da notte bianca è apparentemente ineccitante. Però quello che chiede lui in realtà è una bianchezza complessiva che non turbi, che possa eccitare per vie modeste. La camicia da notte bianca è quella che può accoppiarsi assai bene con il rosa del suo corpo e il calore. Se voi adesso mettete insieme lei che si spoglia, la camicia da notte bianca, nella quale sembrava più rosa e più calda, in cui eccitava di più i miei sensi, la riconciliazione sarebbe stata più completa. Siccome noi non abbiamo notizie di atti sessuali che avvengono, anche la parola riconciliazione assume una strana valenza. Cioè, sarà finalmente un coito? Sarà qualcosa di oggettivo e di liberatorio, oppure sarà qualcosa di fantasticato? Ma a questo punto vediamo un qualcosa che ci richiama Bergotte e l'estetismo, perché in questo momento che dovrebbe essere dedicato a una attenzione erotica, lui dice che esitò perché il bordo azzurro dell'abito che avevano, lui vuole che metta la camicia da notte, lei ha un abito azzurro, il bordo azzurro dell'abito dava una bellezza particolare. Vi ricordate quell'idea della mescolanza dell'arte con la vita? E questa bellezza particolare soprattutto le toglieva una durezza ai lineamenti. Questo è molto fine, molto importante, perché noi quando abbiamo contatti con le persone non è che l'abito sia inessenziale. L'abito può essere magari bellissimo, però può, al di là delle nostre intenzioni, darci più durezza. Pensate per esempio a un abbigliamento maschile tipico attualmente. Oggi i maschi si vestono spessissimo di nero. Eccole qua, due che sono. Che cosa vuol significare il nero dei maschi? Dovete pensare che la sessualità è una cosa molto seria, è fondante. Il nero del maschio vuol significare virilità. Il lettore Ramiro Tò, c'è qualcuno di voi che lo conosce? Lo conosce. Il lettore Ramiro Tò, che io ho chiamato qui 25 anni fa, si è sempre vestito di nero. Io un giorno gli ho detto: ma come mai Remy, lei si veste sempre di nero? E lui non mi ha svelato la cosa. Io gli dico: sembra che lei cerchi nel nero della sua mise, cerchi un succedaneo della virilità, sostanzialmente, come per far vedere, capito, pure quei maschi che hanno i jeans con una specie di macchia consumata qui davanti tra i pantaloni, come per dimostrare che l'uso di quella parte è tale che ha consumato il davanti. Sono piccoli segnali che vengono mandati, piccoli segnali che vengono, ce ne sono tantissimi, nell'abbigliamento sono stati studiati. Il fatto che le ragazze non mettano la maglietta, per esempio, di sotto, ormai da molti anni, fa sì che quando si chinano, avendo la vita dei jeans molto bassi, si vede la spaccatura dietro delle natiche, ed è un bel vedere. Ci sono molti che stanno lì aspettando che si chini per vedere. Cioè, questi segni erotici che cosa stanno a significare? Stanno a significare che noi non viviamo soltanto delle parole che la persona ci dice, ma viviamo del modo con cui la persona ci porge. E allora lui che cosa ha paura qui? Ha paura della violenza di Albertina. Quindi finché ha l'abito con il bordo azzurro la vede morbida, ma se Albertina avesse, dico la sciocchezza, avesse invece delle borchie d'acciaio, allora queste borchie, immaginiamo così una sciocchezza, allora queste borchie d'acciaio invece gli farebbe comodo che andassero via, perché io voglio vedere quale uomo si accorterebbe a una donna per un atto amoroso se questa donna fosse vestita con una corazza romana, vogliamo, con una tunica romana. Potrebbe anche essere molto eccitante, naturalmente, insomma, però obiettivamente se tu vedi vestito da antico romano una ragazza che si accosta con una, e insomma un uomo che sia un po' incerto di se stesso comincia ad aver paura. Ecco, fermiamoci qui. Guardate la pagina a cui siete, così domani. Sì, sì. Domani allora.